No, aspetta, no, perché oggi, no, e oggi sono solo Ioris, è indisposto, è appunto, non è venuto. Quindi appunto lo giro io. Quindi giro. No, no, aspetta, aspetta, fate bim bum bam, tu e Drago. Dai, allora, pari, pari, pari, dispari. Pari io, dai. Pari. Beh, ma pari, dai, tutti due pari. Vabbè, giro io, permette, giro io, dai, giro come io. Come giro? Giro io, voi state lì pari, pari tutte le volte, cioè. Ma no, che pire mette nulla. Un po' di democrazia. Pomice. P di pomice. Ma sì, ma questo è, pomice è una parola fissa che ha lui, ma non è quella che pomice suggerisce davvero. Scusa, pietra pomice, pomice. No, oppure anche pomiciare. Pomiciare, vabbè, pomiciare, possiamo parlarne allora. Pomiciare vuol dire usa la pietra pomice per togliere i calli. Vedi, è un argomento interessantissimo, Drago. Ragazzi, ma i calli del bambino Alberto. Infatti, una trasmissione sui calli del bambino Alberto. Vabbè, ci sta, e su pomiciare. È un problema. Ma lasciamo perdere, calli, dai, lasciamo perdere. P, P suggerisce sicuramente la parola presidente o presidenti, perché sono appena usciti due film importantissimi, ah, sì, è vero, sui presidenti, è vero, americani, giusto, e poi perché siamo alla vigilia delle elezioni politiche che eleggeranno il Presidente del Consiglio, consiglio, e anche alla vigilia, diciamo un po' lontana però, dell'elezione del Presidente della Repubblica. Quindi bambino Alberto, da parlare qui ce n'è. C'è Presidente. Dai, io so qui. Allora, il Presidente è colui che dice, è il capo, no? Il padrone, il padrone, il capo tribù. Sì, il capo tribù, insomma, presiede un'organizzazione, sia essa pubblica o privata. Vabbè, comunque, il Presidente. Una tribù. Vabbè, torniamo all'attualità. Ci sono due film che sono appena usciti sui due presidenti americani. Oh. Uno è di Steven Spielberg, piace, si intitola Spielberg, Lincoln, bello, con Daniel Day-Lewis, ed è candidato a 12 Oscar. Non l'ho visto, però bello. L'altro invece è di Joseph Sargent e si chiama Lincoln, no, un uomo, un presidente, no, dedicato a di nuovo a Lincoln. Ma non no, lo so. Ma cosa stai dicendo? Mi sembra di sì. Ma no, l'ho trovato su Google. Ma non hai guardato la data, quello scusami, è un film del 2005. Invece che quello niente, che pensavi di dire tu era Royal Weekend con Bill Murray. Ma infatti, ma infatti cosa? Infatti i presidenti americani meritano più di un film. Su Roosevelt ne hanno fatti due, quest'uomo presidente e questo che hai detto tu, Royal Weekend. Sì, ma non sai niente. Però manca un film sul presidente più importante degli ultimi anni, insomma, ragazzi. E come no? Un film su Bill Clinton, con la sua storiaccia di stagiste e sigari cubani, Ma sigari cubani, cioè... Now, I have to go back to work on my State of the Union speech. And I worked on it till pretty late last night. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody it's a lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Clinton, al netto dei sigari cubani, comunque un bel film, presidente, così, pruriginoso, bel film, no, bel, sì, presidente, no, certo, ma anche lascia stare i sigari cubani. Vabbè, lasciamo stare i sigari cubani. Qui in Italia invece che film fai? Cioè, su che presidenti? Li puoi fare su Garibaldi, su Papa Giovanni, sì, su Padre Pio, ne ma fatti tutti, ne hanno fatto uno presidenti, su De Gasperi in televisione, che vabbè. Sì. Però si potrebbe fare sui presidenti della Repubblica, Giovanni Leone, presidente, insomma, dai, no, ma no, vabbè. Ma Giovanni Leone. Allora Saragat. Sì, a parte la passione per il vino, non so cosa ti viene in mente. Niente. Scalfaro? Scalfaro, lui aveva detto non ci sto, ti ricordi, solo quello. I did not, meglio, non ci sto. Cossiga, beh, Cossiga, insomma, sì, film con la K, Cossiga, sì, esatto, un film con lui. Ci vuole Oliver Stone, qualcuno tipo, sì. Vabbè, allora Cossiga lo teniamo da parte, magari pensiamo anche a chi può fare l'attore. Se no possiamo anche andare un po' indietro nel tempo, un presidente del passato come Gronchi, ad esempio, un bel film su Gronchi. Gronchiaire. Ma chi? Ma Gronchiaire era un calciatore degli anni 90, cos'era, danese, ma non c'entra vabbè, niente. Quale figurina, Gronchi? Eh? Quale Gronchiaire? Presidenti italiani, i presidenti americani e qualunque presidente americano va bene per farci un film o una canzone, anche, che ne so, James K. Polk. Chi? Canzone. In 1844 the Democrats were split. The three nominees for the presidential candidate were Martin Van Buren, a former president and an abolitionist, James Buchanan, a moderate, Louis Cass, a general and expansionist. From Nashville came a dark horse riding up. He was James K. Polk, Napoleon of the Stump. Capa Polk. Ma io ti dico, mai sentito nominare. Allora, è stato l'undicesimo presidente americano. Ha inglobato parte del Messico del Sud. Sì. Poi ha fatto in modo che le tariffe crollassero. Ha comprato il territorio dell'Oregon dagli inglesi. Vabbè, insomma, ognuno fa quello che può. Ma cosa te ne fai dell'Oregon? Fulfill our manifest destiny and annex the land the Mexicans come in. And when the vote was cast, the winner was Mr. James K. Polk, our 11th president. Young Hickory Napoleon of the Stone. Allora, che cosa ha fatto James K. Polk? Comprato l'Oregon. Ecco, l'Oregon. Cos'è l'Oregon? L'Oregon è il figlio di Aragorn. Ma cos'è? È una specie di Aragorn. Sì, mostri fantasy. Figlio cos'è? Di Aragorn. No, vabbè, l'Oregon è uno stato a nord della California, negli Stati Uniti dell'Ovest. È quello che ho di testa. No, come il calciatore. Aragorn. Ma cosa? Aragorn. Ma vabbè, ma bambino Alberto, non ci siamo proprio imparato niente. No, allora non mi siete spiegati. Ma hai parlato dei presidenti fino adesso, Lincoln, Roosevelt. Sui presidenti. Io da quando sono nato il presidente ce n'è uno solo. In che senso? Cioè, è il presidente del Milan, no? Il presidente del Milan, no? Sì, la squadra di calcio per cui io ho una simpatia però sì. Purtroppo, caro bambino Alberto, non si può nominare in questa sede il presidente del Milan perché siamo in par condicio. Poi comunque il Milan ha avuto una storia di presidenti, voglio dire, prima che tu nascessi. Giussi Farina, chi se lo scorda. Ci sono stati altri presidenti? E come no? Beh, certo. Ma li avrai sentiti nominare in casa di milanisti. Ma nella notte dei tempi, andando molto indietro. Sì, sì. Per esempio, cosa ti ricordi? Mi ricordo Colombo, mi ricordo Buticchi. Ma come fai a ricordarti? Ma c'è qualcuno? Ce l'hai 2 anni e mezzo. Allora, c'ho lo zio, lo zio, quello che sta in Bulgaria. Sì. Lui a suo tempo, prima di espatriare, era un fanatico di calcio, quindi sapeva tutto, mi diceva riempiva di nomi, scriveva da tutte le parti, era un po' così, un po' fissato, no? È andato in Bulgaria perché, scusa? Bulgaria perché diceva, qui non posso più stare, perché non mi fanno stare, non lo so, è andato via. Improvvisamente la notte e la mattina e via. Magari fa così anche il presidente del Milan prima o poi. Il presidente del Milan? No, allora il presidente del Milan sarebbe il capone? Sì. Il padrone? Il capone è tutt'altro. E neanche però. Al capone. Il padrone della squadra che lui. Sì, compra i giocatori, no? Infatti. E quindi il mio presidente, lui che compra i giocatori, tipo adesso, magari compra dei giocatori che io sto aspettando, magari compra cacca, no? Sì, sì, se ne parla, sì. Capito bene? Compra cacca e Balotelli, anche poi voi mi dicevate che questo è una specie di cioè par condicio. Sì. Quindi magari lui se compra i giocatori... anche gli altri presidenti diventa più simpatico, no? Come dire? Ma non c'entra la par condicio, cioè par condicio sarebbe compro cacca, ma compro anche... uno scarso. E compro anche il giocatore per l'Inter, cosa c'entra? No. Milan, compro cacca e compro anche Balotelli. Anche se la testa calda, vieni qua che io ti metto a posto, perché tanto c'ho i miei metodi. C'è il carisma, no? Ah. So convincere il giocatore. Uè, Balotelli, sei una testa calda, ma se vieni da me, io ti ipnotizzo. ABC! Un programma di... Ma questa storia dei presidenti, tu l'hai capita? Ma quali presidenti? Albert, io mo sto arrivando. A me sei sempre in ritardo. Ma chi? Io? Ma quando vai? Oggi?